Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il dolore, la sofferenza, le notti senza fine trascorse in un letto che diventa una prigione dove le lenzuola si trasformano in catene. Lunghe notti di sudore, febbre, spossatezza. E la sofferenza. La sofferenza continua. 36 anni, Minuta, una donna, giace nel letto della sua casa di Londra. I 2 anni trascorsi a Scutari, nell'impero ottomano, l'hanno prostrata fisicamente a un livello tale che spesso pensa di essere in punto di morte. Crede di avere una febbre nervosa. In realtà, molto probabilmente in Turchia, ha preso la brucellosi, la febbre mediterranea, che per anni la terrà confinata e lontana dalla vita sociale, ma senza riuscire a fermarla. Ogni giorno quella donna, detta lettere da inviare agli uomini del governo, scrive ai direttori di ospedali che secondo lei sono da riformare nell'organizzazione, si occupa delle sue preziose statistiche in cui eccelle. Dal suo letto, le immagini di altri letti, di altri malati, di tutti coloro che ha visto soffrire durante la guerra di Crimea, la perseguitano come un incubo, la costringono a fare presto, a battere il ferro quando è ancora caldo, a sfruttare la popolarità che ha guadagnato negli anni della guerra per contribuire a creare un nuovo sistema sanitario che assicuri benessere e cura ai sofferenti. Sa che questo è il suo momento, quando è ancora viva in tutti gli inglesi un'immagine forte come un'icona, quella della signora con la lanterna. Florence Nightingale. Florence Nightingale. Oggi a Destini Incrociati parliamo di una donna che ha costruito il suo destino in maniera incrollabile, contro ogni aspettativa, contro ogni restrizione sociale, contro chiunque e anche a scapito di chiunque, soprattutto di chi nel corso degli anni l'ha aiutata a seguire il suo percorso. Una donna che nella sua immensa pietà per gli infermi non ha mai avuto pietà né per se stessa né per chi, a suo modo di vedere, non faceva abbastanza per raggiungere il risultato che si era proposta. Non era per gentilezza o femminile abnegazione che l'aveva portato ordine nel caos dell'ospedale di Scutari, ma grazie a metodo rigoroso, severa disciplina, rigida attenzione ai dettagli, lavoro incessante e la ferma determinazione di una volontà indomabile. Lo scrittore storico Lytton Strachey, del famoso gruppo di Bloomsbury, insieme a Virginia Woolf, descrive precisamente Florence Nightingale nella sua opera Eminenti Vittoriani. Perché nessuno come la Nightingale ha incarnato in maniera perfetta un'epoca che ha prodotto, come mai prima, consistenza unita a mera apparenza, moralismo di facciata e serio pragmatismo riformista, splendori e miserie di un regno che sotto l'egida della regina Vittoria sembra non debba avere mai fine. Villa La Colombaia, bello sguardo, viene sfiorata dai raggi del sole, mentre nella fontana al centro delle aiuole curate nuotano pigramente i pesci rossi. Attualmente la villa è una sede scolastica, gestita da un ordine di suore, ma nel 1820 è abitata da una giovane coppia inglese. Nella nursery gioca una bambina di circa 1 anno. È nata a Napoli durante un altro spostamento della famiglia e in onore di questa città è stata chiamata con il suo antico nome greco, Partenope. Ma a giorni, in questo mite maggio fiorentino, è prevista la nascita di un nuovo figlio, forse il tanto atteso erede maschio. Quando il 12 del mese, in un incanto di rose profumate e di dolci temperature, una nuova bambina vede la luce, i genitori, dopo un primo momento di delusione, accolgono la creatura con tutto l'amore possibile e un nome che, anche in questo caso, celebra la città che li sta accogliendo. Fiorenza, in inglese Florence. Suo padre era un umanitarista liberalista che si batté molto per la riforma del Parlamento. Sua moglie Fanny era considerata una bellezza con l'ambizione di animare un salotto politico. Anche lei veniva da una famiglia liberalista. Enormemente ricchi, ben introdotti nell'influente società inglese, con grandi tenute nel Derbyshire e in Hampshire, un lussuoso appartamento a Mayfair, nel centro di Londra, e la possibilità di trascorrere lunghi periodi sul continente come questi anni passati in Italia, i Nightingale sono anche colti, impegnati in politica e nel sociale, animati da un profondo spirito riformista che trasmettono anche alle figlie. Era una famiglia molto colta che incoraggiava le figlie a pensare. Un altro biografo, il professor F.B. Smith, sottolinea la qualità del rapporto dei Nightingale con le loro figlie. William insegna alle sue figlie l'italiano, il francese, il greco e il latino, la matematica, la storia e la filosofia. Eppure, col passare degli anni, proprio questa educazione così liberale porta con Florence conseguenze difficili da gestire. Col fatto che aveva ricevuto un'educazione molto maschile, si aspettava di poter andare nel mondo ed avere le opportunità di un uomo. Ma è proprio qui che inizia il conflitto con la sua famiglia, perché i genitori, nonostante tutto, non volevano che facesse cose da uomini. Crescendo, Florence sperimenta sulla sua pelle cosa significa nell'Ottocento essere dotata di intelligenza, cultura e carattere, ma anche essere irrimediabilmente donna. La sua vita, le sue giornate, sono già decise dal suo sesso. Le occupazioni che le sono consentite le appaiono senza senso. Le mattinate trascorrono stando in salotto intorno a un tavolo a guardare riviste e a leggere libri. Ognuno poi legge ad alta voce qualcosa del proprio libro o del proprio giornale e ogni 5 minuti qualcuno dice qualcosa. Il pomeriggio, invece, viene trascorso facendo una passeggiata. Quando arriva la notte, le donne soffrono fisicamente per l'accumulo di energia nervosa di chi non ha nulla da fare per tutto il giorno e ogni notte le fa sentire, quando vanno a dormire, come se stessero diventando pazze. Descrivendo Florence, la biografa Jeanne Wake descrive la condizione di moltissime donne dell'epoca vittoriana. Pare quasi di vederla scrivere con furia, quasi pugnalando i fogli per la rabbia, per la frustrazione che le donne non potessero fare di più, che non gli venisse permesso di fare di più, che non potessero essere indipendenti, che fossero legate a questa immagine di angeli del focolare. Donne di risorse e qualità dalle quali, come per Florence, ci si aspetta che tutti i doni e i privilegi acquisiti siano messi a disposizione solo per la ricerca di un marito a cui votare l'intera vita futura. Una prospettiva che provoca in Florence un senso di ribellione e angoscia profondi. Florence Nightingale subisce la costrizione di tutte le donne vittoriane di buona famiglia. A loro non è permesso sentirsi utili, ma solo di essere graziose e compiacenti. E dunque, per un certo periodo, anche Florence cerca di adattarsi, di fare come le si dice, come ci si aspetta. Presiede ai tè delle cinque, ai balli volteggia nel valzer accompagnata da molti cavalieri. Fra essi, uno le sta particolarmente a cuore, Richard Monckton Milnes. Era un giovane considerato molto promettente. Era giusto il tipo d'uomo che William e Fanny Nightingale avrebbero adorato come genero. Chiese Florence in sposa per ben 3 volte e lei all'inizio non disse proprio di no, ma alla 3ª volta gli scrisse che non poteva sposarlo. No, non poteva. Votarsi a un uomo per tutta la vita. Rinunciare a se stessa, ai suoi sogni, ai suoi desideri di realizzazione personale. Florence non poteva annullarsi in una vita da dama di buona società. E dunque, rinunciando a Monckton Milnes, Florence decide di seguire le sue inclinazioni. Comprendere quale sia la propria missione sulla Terra non è facile per nessuno, tantomeno per una donna che non trova amici e confidenti che la sostengano nella sua battaglia contro le aspettative dell'epoca. Una battaglia che ha i suoi costi. Per tutto il tempo in cui questa dura, Florence sperimenta crolli nervosi, non dorme, si ferisce, ha problemi mestruali. L'infelicità che prova è profonda. Lo sconforto è tale da farle pensare alla soluzione più drastica. In più di un'occasione, fra i 20 e i 30 anni, ha pensato di suicidarsi. Si vedeva come un mostro perché voleva cose che altre ragazze non volevano. E alla fine iniziò a giustificare le sue ambizioni in termini religiosi. Dio voleva che intraprendesse questa carriera. Era stata chiamata al servizio di Dio. A quel tempo la chiamata di Dio è l'unica possibilità che le ragazze hanno di imporre la loro volontà. Mascherandola in questo modo, Florence cerca uno spazio autonomo dove potersi ritagliare un'occupazione che la convinca più di quella di offrire il tè alle amiche della madre. Quando è in campagna, inizia a visitare i poveri e gli ammalati dei villaggi nella tenuta di suo padre. E quando è a Londra, si interessa alle strutture ospedaliere della città. A mano, le pare di trovare un interesse che veramente riesca a sfidare la sua intelligenza in modo proficuo. I pensieri e i sentimenti che provo adesso li ricordo da quando avevo 6 anni. Ho sempre ritenuto essenziale e sempre desiderato per me avere una professione, un mestiere necessario, qualcosa che impieghi tutte le mie facoltà. Il primo pensiero, e l'ultimo che ricordo, è assistere. E in assenza di questo, educare. Ma educare i bisognosi, non tanto i giovani. E invece ho provato di tutto. Viaggi all'estero, amici affettuosi, tutto. Mio Dio, che ne sarà di me? La domanda di Florence non è retorica. Cosa accade a una ragazza di buona famiglia se non sceglie il matrimonio, la sicurezza della vita domestica? Sa che per lei la scelta di assistere gli ammalati è una strada senza ritorno che potrebbe allontanarla per sempre dalla famiglia. Nonostante tutto il loro riformismo umanitario, William e Fanny fanno parte di una società talmente instradata in un binario conformista e classista che non possono di certo comprendere quello che ai loro occhi è solo una scelta degradante per la figlia. Fanny era traumatizzata all'idea di sua figlia in un ospedale pubblico, senza l'ausilio di una chaperone che ne preservasse la purezza, una cosa impensabile a quei tempi e per una ragazza della classe di Florence. Così invece sarebbe stata fra gente disonorevole, di dubbia moralità, in mezzo alla sporcizia, agli ubriaconi, a dottori maschi, aiutanti maschi in generale. Fanny non poteva sopportarlo. Fanny non ha tutti i torti. Negli ospedali lavorano solo uomini, qualche suora e occasionalmente qualche vecchia donna, spesso un'alcolizzata rozza e senza alcuna capacità specifica, che si guadagna da vivere tagliando qualche benda o lavando gli ammalati, o vendendosi in ben più sordidi commerci. Gli stessi ospedali, più che essere luoghi di cura, sono considerati per la povera gente solo passaggi obbligati verso la morte, che spesso le terribili condizioni igieniche accelerano. I ricchi si curavano a casa. L'idea che una ragazza graziosa e di grandi possibilità economiche come Florence Nightingale scelga deliberatamente di diventare un'infermiera è impensabile. Ma l'infelicità, i continui litigi, i collassi nervosi e gli isterismi che il povero William Nightingale deve sopportare dalla figlia minore in lotta contro la madre e la sorella maggiore sono tali che per sopravvivere sceglie di venire a patti con l'inflessibile volontà di Florence. Da questo momento non c'è ospedale o istituto di beneficenza a Londra o all'estero che non venga visitato dalla figlia dei Nightingale, a Parigi come a Roma. Ma i suoi viaggi non sono solo per visitare i luoghi di sofferenza, ma anche per godere di viste spettacolari come al Cairo, dove visita le piramidi e il tempio di Abu Simbel. Non credo di aver mai visto nulla che mi abbia colpito più di così. In tutto questo peregrinare, però, la tappa più importante è a Kaiserswerth, in Germania, dove rimane 3 mesi. Mentre la famiglia si stabilisce a Karlsbad. È l'esperienza che cambia la sua vita. Il Reno scorre pigramente lungo le sponde di questo piccolo paese medioevale alle porte di Düsseldorf. Non molto distante dal fiume, si trova nascosta dagli alberi una grande costruzione dalle alte guglie che ospita l'ospedale delle antiche diaconesse luterane. Nella quiete del villaggio, all'interno di una struttura finalmente gestita con encomiabile rigore e abilità, Florence inizia a imparare i primi rudimenti di quella che considera un'arte al servizio della gente, un servizio che richiede capacità e dedizione. I frutti di questo periodo in Germania non si fanno attendere e al suo ritorno a Londra Florence Nightingale viene chiamata a soprintendere l'Istituto per la cura delle gentildonne malate in Harley Street. È il segno che la sua strada è quella giusta. Roma è il 1847. La città è viva e feconda. Da appena un anno siede sul soglio pontificio Papa Pio IX, Giovanni Mastai Ferretti, papa almeno all'inizio liberale e illuminato. L'atmosfera che si respira è allegra. Il colore dei tramonti romani sembra offrire tutte le sfumature del rosso misto al violetto, mentre il ponentino accarezza le cime degli alberi. È la città ideale per accogliere chi vuole essere felice, chi sogna il bello, chi ama la vita. E chi ama la vita e vuole essere felice più di una giovane, ricca e nobile coppia appena sposata? A loro Roma offre visite alle antiche rovine, passeggiate sotto i pini mediterranei e di sera cene e inviti ai balli eleganti. È presumibilmente a uno di questi balli che Florence Nightingale incontra l'altro protagonista della nostra storia, Sir Sidney Herbert. Sir Sidney Herbert. Sir Sidney Herbert e sua moglie Elizabeth stanno trascorrendo parte della luna di miele nella capitale dello Stato Pontificio. E come molti inglesi di passaggio, anche loro vengono invitati alle grandi soirée dell'aristocrazia papalina. Non potrebbe essere altrimenti. Herbert è il figlio minore del conte di Pembroke, pari d'Inghilterra, una delle più grandi famiglie della nobiltà britannica. Sua madre è la contessa Caterina Vorontsova, figlia dell'ambasciatore russo. Come tutti i suoi fratelli, Sidney nasce nella tenuta di famiglia, Wilton House, una splendida costruzione palladiana dei primi del 1600, rifondata sulle rovine di una precedente magione dell'epoca Tudor e circondata da un giardino all'inglese che nasconde fra gli alberi e i fiori selvatici ponti e piccoli gazebo. Sale imponenti, quelle della Wilton House, utilizzate come location per più di un film famoso, dal Barry Lyndon di Kubrick a Orgoglio e Pregiudizio, fino a La giovane Vittoria. Sidney Herbert era un uomo che aveva tutto dalla sua parte: bellezza, ricchezza, cultura, educazione. Il suo unico problema era che finiva sempre sotto l'influenza di donne dominatrici, e con Florence incontrò il punto massimo della donna dominante, prepotente, spietata. At midnight, 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl. Destini incrociati. La loro è un'amicizia fra un uomo e una donna legati intimamente dalla loro devozione ad una causa pubblica. C'è anche dell'affetto reciproco, ovviamente, che ha giocato un ruolo in tutto ciò, ma si tratta di un ruolo incidentale. Tutta l'anima del rapporto è stata una perfetta comunione nel lavoro. È ancora Lytton Strachey, che ci aiuta con la sua opera Eminenti Vittoriani, a scavare qui a Destini Incrociati la complessa personalità di Florence Nightingale e soprattutto la sua relazione con Sidney Herbert, grande amico e artefice in qualche modo della sua fama. Nei suoi racconti di Sebastopoli, Lev Tolstoi, ufficiale dei granatieri nell'esercito russo, racconta lo sconforto per la carneficina dei soldati durante le battaglie in Crimea e l'assedio alla città di Sebastopoli. Al termine della guerra scriverà: la carriera militare non fa per me, e prima me ne tirerò fuori, prima potrò tornare a fare letteratura. Tolstoi non è l'unico a raccontare l'orrore della guerra. I danni dei cannoni russi sull'esercito alleato anglo-francese accorso in aiuto dell'impero ottomano attaccato dallo zar, e soprattutto quello che succede nelle retrovie dell'esercito inglese, dove i soldati non ricevono alcuna assistenza, viene raccontato da uno dei primi corrispondenti di guerra, William Howard Russell del Times. È con sentimenti di sorpresa e rabbia che il pubblico apprenderà che non vi è stata nessuna preparazione soddisfacente per curare appropriatamente i feriti. Cosa devono pensare quando sapranno che non ci sono bende o biancheria, nessun chirurgo disponibile o infermieri che raccolgano le istruzioni di questo chirurgo? Gli articoli di Russell provocano l'indignazione di ogni singolo cittadino in patria. Il Ministero della Guerra, allora presieduto proprio da Sidney Herbert, viene subissato dalle proteste dell'opinione pubblica. Gli inglesi, che non avevano più combattuto una vera guerra dai tempi di Wellington, 40 anni prima, andarono in Crimea pensando che sarebbe stata una passeggiata. Partirono senza portare con sé ospedali da campo, ambulanze, dottori, infermieri, suore. Così, quando arrivò anche il colera, questo causò un disastro terribile nell'esercito inglese. La passeggiata che separa Whitehall, sede dell'allora segretariato alla guerra, da Upper Harley Street, dove si trova il piccolo istituto di cura gestito da Florence Nightingale, passa per le vie più eleganti di Londra: Pall Mall, Jermyn Street, Regent Street, fino ad arrivare a Regent's Park. È una passeggiata molto piacevole, ma non deve avere avuto tanto tempo per guardarsi intorno il messo inviato con urgenza dal ministero, quando Florence riceve la lettera di Sidney Herbert e nel suo studio. La scrittura dell'amico è sottile e concitata, come racconta Martha Vicinus, curatrice delle lettere della Nightingale. C'è solo una persona in Inghilterra, che io conosco, che sarebbe in grado di organizzare e dirigere il piano che ho in mente. sono stato più volte sul punto di chiedere a voi se ipoteticamente, nel caso tentassi di portare avanti questo progetto, vi impegnereste a dirigerlo. La studiosa di letteratura vittoriana Martha Vicinus spiega così l'iniziativa. Herbert vuole che le cattive notizie sui giornali che riguardano il fronte finiscano e quindi sostanzialmente chiede a Florence: vuoi prendere con te un piccolo gruppo di infermiere e investigare sulle condizioni in cui versano i feriti? Fino ad allora non c'erano mai state infermiere donne a lavorare negli ospedali militari. Al massimo c'erano le mogli di qualche militare o prostitute o gente presa sul posto per lavorare. È quindi il suo momento. Lei lo capisce subito. And the wind blew an invocation. I fell asleep at the gate. Il 5 novembre 1854 un piroscafo inglese entra nel porto di Costantinopoli. Dalla passerella che lo porta sulla terraferma, 38 donne inglesi si guardano intorno con una punta di smarrimento. Solo la 39esima signora punta con decisione il suo mento aguzzo verso l'immensa costruzione che si staglia dall'altra parte del canale, verso il suo futuro. È la sede dell'ospedale militare inglese, il suo destino. Florence Nightingale è appena giunta sul suolo ottomano per prestare la sua opera all'ospedale militare di Scutari, un quartiere al di là del Bosforo, nella parte asiatica di Costantinopoli, dove l'esercito inglese ha preso in consegna un vecchio edificio per adibirlo a ricovero delle centinaia di feriti in arrivo dal fronte della Crimea. Migliaia di soldati sono ammassati in lunghi corridoi mal areati, su semplici giacigli buttati per terra. Gli uomini non sono solo feriti, ma laceri, sporchi, abbandonati a loro stessi. Oberati dal lavoro, i chirurghi operano in condizioni spaventose. Tifo, colera e dissenteria la fanno da padrone. Per i soldati, dopo l'incubo della battaglia, questo è un inferno ben peggiore. Cercava di organizzare le cose e in questo eccelleva. Non era una grande infermiera, le sue compagne dicevano che era una terribile nurse. Non veniva considerata veramente parte del loro gruppo, ma era una grande organizzatrice. Forse le sue capacità organizzative sono frutto degli insegnamenti delle diaconesse luterane di Kaiserwerth, ma più probabilmente sono una qualità innata e portata avanti con caparbia dedizione e sostenute da una materia di cui fin da piccola scopre le gioie. Diceva che per capire Dio e il suo pensiero bisognava studiare la statistica, attraverso la quale egli mostrava i suoi scopi. Per lei la statistica faceva parte dei suoi doveri religiosi e dei suoi imperativi morali. Quando Florence aveva 9 anni, iniziò a collezionare dati su ciò che mangiava ogni giorno. I diversi frutti e le verdure, che poi segnava in tavole e organizzava in una forma standardizzata, creando così le sue prime tavole statistiche all'età di 9 anni. Secondo la dottoressa Magnello, i grafici degli interventi statistici di Florence sono ancora oggi considerati pionieristici. Ma a Florence i medici non interessano molto. A lei interessano i soldati, quelli che non hanno nessuno per difenderli. E così ogni notte, tenuta sveglia dall'insonnia e dai pensieri, si aggira con una semplice lanterna per le ampie navate che si snodano quasi per 8 chilometri, per tenere compagnia a quei ragazzi che hanno offerto la loro gioventù alla patria. Si dedicava soprattutto ai soldati semplici. Credo sia la parte più commovente dell'intera storia. Notte dopo notte restava insieme ai soldati che stavano morendo e scrisse centinaia di lettere di condoglianze ai genitori, alle madri dei morti, dicendogli che il loro figlio era aspirato in pace e tranquillità, anche quando, come nella maggior parte dei casi, questo non era vero. In breve, la notizia dell'assistenza che Florence assicura ai soldati arriva fino in Inghilterra e i suoi giri notturni con la lanterna a illuminare i giacigli dei feriti diventano così famosi che lei stessa viene ribattezzata la signora con la lanterna. La signora della lanterna è la soluzione alla gran parte dei problemi di Herbert. Sono ogni giorno sempre più convinto che in politica, come in tutto il resto, non ci può essere nulla di giusto se non è conforme allo spirito del Vangelo. Sante parole, ma Sidney Herbert è più ancora che un uomo religioso, un romantico, tanto quanto Florence Nightingale non lo è mai stata. A volte le loro visioni si incontrano con difficoltà, ma c'è di buono che la religiosità di Herbert va di pari passo con una grande pazienza e un carattere fin troppo conciliante. Florence Nightingale è una donna risoluta, ma anche molto difficile. È attraverso l'uomo che questa donna esercita la sua volontà, e quindi prende possesso di lui, lo guida, lo condiziona, lo assorbe, lo domina in tutto e per tutto. In cambio Florence diventa l'orecchio di Herbert. Ogni sera, quando a Scutari tutti vanno a dormire, lei scrive lunghe lettere a Herbert, raccontando ogni evento nel dettaglio e facendo i nomi di chi è incompetente e chiedendone la testa. Anche per questo i medici non si fidano di lei. È una spia. Ma la signora con la lampada è al di sopra di ogni critica e a lei si interessa ormai anche la regina Vittoria. Fate sapere alla signora Herbert che desidero che Miss Nightingale e le altre signore dicano a questi poveri coraggiosi feriti che nessuno ha più a cuore e nutre più interesse per le loro sofferenze della loro regina, che giorno e notte pensa alle sue amate truppe, e così fa anche il principe. Col tempo e l'apprezzamento dei potenti, gli effetti positivi del lavoro di Florence Nightingale riescono ad andare ben oltre l'organizzazione di qualche ospedale militare. Essi vanno a influire anche sulla vita di molte donne dell'epoca vittoriana. Improvvisamente ci si rende conto che esiste nel paese un enorme potenziale umano a disposizione che ha solo voglia di prodigarsi in qualche modo. Le donne, in particolare quelle delle classi abbienti, colte, ricche e quindi utili. You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Destini incrociati. A Destini Incrociati abbiamo compiuto un grande viaggio dall'Inghilterra a Costantinopoli per seguire a metà 800 il percorso di Florence Nightingale verso la fondazione del mestiere della infermiera moderna. Al suo fianco come amico e come mentore Sidney Herbert, ministro della guerra, che ha l'intuizione geniale di inviare Florence e 38 volontarie in Turchia per prestare servizio all'ospedale militare di Scutari e curare le migliaia di feriti della guerra in Crimea. Dopo 2 anni di lavoro, la Nightingale torna a Londra. La sua salute è molto precaria per via di una malattia virale, ma la sofferenza non la rende meno imperiosa. È incredibile come dalla sua casa nel centro di Londra lei riesca ancora a guidare le scelte sanitarie della nazione. Sfruttando appieno il credito dato dall'opinione pubblica, che la consacra una specie di santa dei malati, Florence vuole che l'intero sistema assistenziale cambi e che sia lei a dettarne le linee guida. In parte ci riesce, nessuno nega che abbia incredibili capacità amministrative. Ma la realtà è che durante i primi mesi dell'arrivo a Scutari della Nightingale non ci fu nessun significativo abbassamento della mortalità fra i soldati. Mark Harrison, dell'Unità di Storia della Medicina, ci racconta che si dovette attendere una commissione di medici e chirurghi inviati dall'allora primo ministro Lord Palmerston per iniziare a ottenere risultati significativi. La preoccupazione della commissione fu di migliorare le condizioni dell'ambiente in generale, laddove la preoccupazione della Nightingale era soprattutto verso l'igiene personale del singolo soldato. Questa è la differenza principale e la ragione per la quale la commissione sanitaria riuscì a ridurre le malattie, mentre le misure intraprese dalla Nightingale non ebbero alcun impatto. Anzi, furono accompagnate quasi da un aumento della mortalità. Quando Florence Nightingale scoprì di avere torto a proposito delle cause di mortalità dei pazienti nel suo ospedale, fu determinata a darne la colpa a qualcuno. Quindi smise di incolpare l'esercito, di incolpare i medici e iniziò a incolpare il governo, e in particolare il suo vecchio amico Herbert e precedente ministro della guerra, responsabile della scelta del luogo e della struttura dell'ospedale. Anche Hugh Small, uno dei biografi di Florence, sottolinea quello che la donna pensa in proposito. È Sidney Herbert che doveva risolvere il problema. Florence lo coinvolge su ogni progetto e pretende da lui ogni possibile appoggio. In mancanza dell'autorità che la società non conferisce al suo sesso, lei usa quella dell'amico e lui non si nega. Solo verso la fine, quando Sidney Herbert sente che non solo le forze, ma anche la vita lo sta abbandonando, l'uomo cerca di sfuggirle, cerca di rifugiarsi tra le alte querce della sua amata Wilton, di ritirarsi dalla cosa pubblica, ma invano. Sul letto di morte, le ultime parole di Sidney Herbert sono per l'amica. Povera, povera Florence. Il nostro lavoro incompiuto. E ho cercato di fare. La morte di Sidney Herbert è un duro colpo per Florence Nightingale. La donna sa perfettamente che tutto quello che ha ottenuto è stato anche grazie agli sforzi dell'amico, che per anni le ha messo a disposizione tutti gli strumenti politici e anche finanziari. Su tutti, il fondo Nightingale per la formazione delle infermiere, in cui sono affluite migliaia di sterline offerte generosamente dalla gente comune e dalle centinaia di conoscenze nel mondo finanziario e aristocratico che insieme hanno Florence e Herbert. Sempre in quegli anni, la Nightingale pubblica anche un libretto con le sue considerazioni sulla professione dell'infermiera. Non stupisce dunque che il movimento delle suffragette, che stava timidamente vedendo la luce in quei decenni, si rivolga a Florence come a un simbolo di emancipazione femminile. Ma a torto. Era ambivalente verso le suffragette. Si rendeva conto che in pubblico era tenuta a sostenerle moralmente per ciò che stavano cercando di ottenere, ma in privato pensava che le donne fossero piuttosto sciocche e non ne aveva una grande opinione. E alla fine mise la sua firma sotto la petizione che andava contro le suffragette. La verità è che Florence Nightingale si sente molto più simile agli uomini che alle donne. Spesso si riferisce a se stessa con espressioni maschili e in ogni caso nutre stima e ammirazione solo per gli uomini. Sarebbe quella che oggi definiremmo una donna alfa, interessata al potere e a quello che il potere può garantire in termini di cambiamento, ma i suoi intenti, c'è da sottolinearlo, non furono mai egoistici. Donna di incredibile capacità lavorativa, non si è mai negata alla fatica e all'impegno. Florence è una donna di ferro, tanto che persino Margaret Thatcher, la più famosa Lady di Ferro, ne parlò con ammirazione. È stata una di quei grandi personaggi con una visione piena di dedizione. Sapeva quello che voleva e nessun militare o altra persona poteva distoglierla da questo. Nonostante le malattie, Florence vive a lungo e muore a 90 anni compiuti nella sua casa in South Street. La giovane graziosa dal mento appuntito e risoluto ha lasciato il posto a una paffuta signora con la cuffietta di pizzo. Lo sguardo, quello, non è cambiato, penetrante e determinato. Attribuisco il mio successo a questo. Non ho mai cercato o chiesto scuse.